sento di esserci come un bambino che scopre il mondo. Oggi c'è un tempo da scrivere dentro a una storia che ha scelto me. E allora butto gli schemi standardizzati per vivere comodi e rassegnati. Io li butto con vuoto a perdere prima che quel vuoto riempia me. Favola nella realtà che spinge ogni passo più in là. Io la vivo e vivo la mia storia. Voglia di credere negli eroi, in gente che non si arrende mai. E voglia di esserci anch'io da adesso in poi, in tutti i giorni eroi. E in tutti i giorni ogni vita è lasciata da scrivere, tra coraggio e fatica da vivere. E come un bambino che scopre il mondo, io riscopro nuovo ogni attimo di questa nuova realtà che spinge i miei passi più in là. Io la vivo e vivo in questa storia. Voglia di credere negli eroi, in gente che non si arrende mai. E voglia di esserci anch'io da adesso in poi. Di credere negli eroi, dentro ogni vita una favola, dove ogni giorno è l'impresa che non sai. Oggi è tempo per gli eroi. E niente fenomeno, giorno per giorno uomini, nati per vivere come missione ogni momento. Voglia di essere degli eroi, di essere chi non si arrende mai. E voglia di un mondo diverso, grazie a Dio. Sono ancora eroi, eroi, eroi, in tutti i giorni eroi, eroi, eroi, in tutti i giorni eroi. Terza parte di Rock Legends e come sempre Gianluca microfono, ricordo stasera ospiti Controtempo. Con voi e con loro ascolteremo 6 brani del CD In tutti i giorni eroi, come il primo che è andato in onda. Titolo? Il titolo era Eroi, che contiene la frase che dà il titolo del disco, è In tutti i giorni eroi ed è il singolo che è uscito adesso, è uscito in questi giorni. Questo è il nostro nuovo singolo, nel cui video, insomma, siamo contenti di aver fatto un video bello bello, insomma, con, come stellare, anticipavamo prima, no? c'è una squadra di hockey su carrozzina che sono i protagonisti, i veri eroi, quelli che si giocano la vita e i protagonisti dell'impresa sportiva anche di questo video, no? E invece atleti, ex campioni del mondo, magari partendo da dove abitiamo noi, no? Abbiamo Luca Toni, abbiamo Cantagalli, no? Atleti della nostra parte che sono tra i più titolati del mondo, insieme a Alberto Tomba è venuto poi il Bologna Calcio, che Gianni Morandi gli è piaciuto molto il progetto, che lui è presidente onorario e ha fatto partecipare Bologna con Di Vaio e altri giocatori, Angel Dennis, insomma Loris Magnà di Casa Modena, insomma ci sono davvero tanti ospiti, Franco Bertoli. E quindi niente, abbiamo voluto rovesciare il concetto di eroe, no? Non chi arriva primo da qualche parte, allora la sua vita è degna di nota perché è arrivato primo, è stato campione del mondo. No, i protagonisti sono chi riesce a prendere la propria vita e farne un capolavoro, qualcosa di bello, andando oltre le difficoltà. Quindi i protagonisti sono la squadra di hockey su sedia a rotelle. In questo video gli atleti campioni sono a servizio loro, fanno gli allenatori oppure i loro tifosi, e quindi abbiamo rovesciato il concetto di eroe. la vostra esperienza durante le registrazioni e quali sono le linee guida che hanno tracciato questo vostro disco. Fra l'altro so che avete anche collaborato con Massimo Varini, che è uno stimato chitarrista nonché arrangiatore molto ricercato dai grandi della musica italiana. Sì sì, certo, Massimo Varini è stato un onore lavorare con lui, ma uguale onore anche con Alex Bagnoli, che è l'altro produttore che ha lavorato con noi. E voglio dire, poi dopo, a parte, e anche siamo contenti di dire che anche questo nostro secondo singolo, che è un taglio così bello rock, che è Eroi, la direzione artistica è praticamente stata nostra di Controtempo, quindi è stata una delle canzoni in cui ci hanno lasciato più decidere. E quindi voglio dire, questo per testimoniare che non siamo un gruppo costruito a tavolino da qualche produttore, ma che abbiamo avuto possibilità di lavorare con produttori che hanno sviluppato quello che eravamo noi. E poi è bello quando ci mettiamo a arrangiare noi le cose, no? E a produrre, vero, forse le fasi. Sì, perché diciamo che, beh, innanzitutto, ecco, il fatto di comunque essere influenzati, perché ci sono i produttori artistici che danno una particolare impronta, è ovviamente un onore, ma è uno stimolo notevole. Ma proprio anche quando ci mettiamo ad arrangiare i pezzi in studio, è lì che esce tutta la ricchezza del gruppo, ecco. La prossima canzone per i nostri ascoltatori. La prossima canzone è il singolo che ci ha tenuto compagnia tutta l'estate, che è Come Bud Spencer e Terence Hill, che anche questo è un video non normale, perché Bud e Terence sono venuti a recitare il nostro video 17 anni dall'ultimo loro film insieme. Quindi ascoltiamoci questo singolo e poi ne parliamo. Quasi una storia imparata a memoria, due sogni, un cassetto e due gambe per rincorrerli un po', come dentro ad una storia che ti riempie l'aria, che dice che noi siamo vivi così, dice che noi corriamo ma non scappiamo, noi siamo fatti un po' così, come Bud Spencer e Terence Hill. In mezzo ai guai ti salvi come vuoi, e siamo fatti un po' così, come Bud Spencer e Terence Hill. La vita è strana, sì, però ce la giochiamo noi. Continua la storia con due vite, un sogno e una realtà, due facce collaudate o consumate, dipende come le hai lasciate vivere, se le lasciate sorridere, in mille avventure fatte così, e in mille altre ancora, finché possiamo. Noi siamo fatti un po' così, come Bud Spencer e Terence Hill. Un po' ci nasce, un po' lo fai, ma poi ci credi e va. Fatti un po' così, come Bud Spencer e Terence Hill. La coppia è strana, sì, però non la dividi mai. Mai, mai, mai, mai, mai, mai. Oh, non la dividi mai. Oh, oh, oh, oh, non la dividi mai. Mai, mai, mai. Non la dividi mai. Mezzo botte di Natale, con o senza la camicia, a pari e dispari, la vita gioca quando vuoi. Noi siamo fatti un po' così, come Bud Spencer e Terence Hill, con la camicia in mezzo ai guai, per non fermarsi mai. Ancora un poco e ci arrabbiamo, però poi tanto giochiamo, ma sì, però ce la giochiamo noi. La vita è strana, sì, però ce la giochiamo noi. In studio ancora con i Controtempo, capitolo recensioni musicali, quali le più importanti, che cosa dicono del vostro album, in particolar modo cosa i giornalisti hanno segnalato? Allora, io posso rispondere per fra le varie recensioni. Certo. Una recensione che mi ha particolarmente simpatica, mi ha colpito, che diceva che questo album è composto praticamente da canzoni che è bello cantare sotto al palco tutti insieme con gli amici, cioè gridarle anche, no? E questo mi ha colpito molto perché ha sottolineato un po' quella che è l'immediatezza di tante canzoni, cioè il fatto che comunque ci sia un messaggio, che sia un messaggio innanzitutto che viene espresso bene nel live, quindi nell'energia positiva che uno ha nei concerti, e poi che aggrega anche un messaggio aggregante, un messaggio, diciamo così, veramente positivo, veramente insomma pieno di energia positiva, ecco. Tra l'altro è scritto da un giornale come Rockerilla, che di solito premia le cose sempre molto più alternative, no? Quindi e tra l'altro la stessa cosa che si parlava anche di amicizia, no? Di una musica in qualche modo parla della vita aggregando, che è lo stesso concetto che magari ha fatto entusiasmare Terence Hill e Bud Spencer a partecipare, a collaborare con noi, no? Che anche questa canzone che abbiamo appena ascoltato parla di questi valori dell'amicizia, di un modo di giocarsi insieme la vita anche quando le porte sembrano chiuse davanti alle difficoltà, come accadeva nei loro film di Bud Spencer e Terence Hill, che sembrava sempre tutto chiuso, tutto e poi se ne inventavano sempre uno, no? Quindi è un approccio alla vita positivo che a noi piace prendere come esempio, la loro comicità per noi è ricca di spunti davvero importanti, e loro sono venuti proprio gratuitamente a collaborare con noi perché ci tenevano che ci fosse un gruppo che magari portava avanti certi messaggi, quindi siamo contenti e onorati di poter dire di aver lavorato con loro e di sentirli e avere la loro amicizia ancora tuttora, insomma. Prossima canzone? La prossima canzone si chiama Un brindisi a quello che hai, una ballata, e così facciamo sentire anche il lato un po' più ballata, è un bel quello stile con l'armonica un po' all'americana, no? Che parla della capacità di vedere un po' più in alto quando tutti i tuoi obiettivi ti sono crollati addosso, no? Dicevamo anche un po' prima. Torneremo breve per la quarta parte di Rock Legends con i Controtempo, rimanete ancora su Radio RCS. Un altro obiettivo mancato, quel fottuto dado truccato che rotola ancora, segnando per ora la solita cifra di chi ti abbandona. E un'altra speranza sfumata, un altro bel sogno smontato, e a raccogliere i pezzi sono sempre gli stessi che tutte le volte ti trovi a contare così. Con la faccia nella sabbia, c'è chi dice che è sfortuna, io ti dico guarda, c'è la luna. Un brindisi a quello che hai, anche se non è come vuoi, anche con le ossa fracassate dalle testate. Un brindisi a quello che hai, che non ti serve vincere, ma solo non stancarti mai di vivere quello che hai. E tutto ti sembra crollare, ma non il rumore del mare, e allora ti attacchi ad un'onda, il cuore sai che non affonda, e senti la vita che sale quando la volevi buttare, credendola persa perché era diversa da come l'avevi pensata, ma adesso sei qui e vedi che puoi stare a galla. Non è questione di fortuna, è che sopra il mare c'è la luna. Un brindisi a quello che hai, anche se non è come vuoi, anche con le ossa massacrate da chi le ha usate. Brindisi a quello che hai, perché non serve vincere, ma solo non stancarti mai di vivere quello che hai. Tra le ferite che non vuoi, c'è un cuore che non